Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 9 minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana ed è una chiusura settimana pesante per Milano, come già vi hanno ricordato i nostri GR. Le borse europee sono tutte negative, per carità, però Milano perde 2 punti percentuali più della media, anzi anche qualcosa in più, anche 3 punti se guardiamo a Francoforte e a Londra. Comunque Londra -1%, Francoforte -0,80, Parigi -1,50, Milano è arrivata a perdere il 3,80%, adesso perde il 3,40%. Perché? Perché vanno molto male le banche. Devo dire che a fronte comunque di una debolezza di tutta Europa, ripeto, i segnali che sono arrivati oggi vanno guardati non con allarmismo ma con molta serietà e anche un pizzico di preoccupazione. Non è solo il calo, nel caso di Unicredito è un tonfo, -8%, è arrivato a perdere un incredito, adesso perde il 7,20%, Fondiaria al 6,90%, la Popolare di Milano perde il 6% anch'essa, il Banco Popolare -6%, Ubibanca -5%, Generali -4,40%, Intesa San Paolo -4,40%, e questo è il mondo bancario. Poi c'è Fiat -4,20% su Fiat Industrial, quindi auto, camion e trattori, -4,20% anche su Fiat, -3,80% su Pirelli, -5,20% su Azimut, -6,60% su Ansaldo CTS. Va male tutto e questo lo dice lunga su quello che sta capitando sui mercati. Cioè il titolo che va meglio è Campari -0,50% assieme a Bulgari, che è invariata, perché va male anche Eni nonostante il petrolio e la benzina siano alti, -2,50%, Saipem -2,30%, Enel -2,30%, Enel Green Power -2,30%, Telecom -2,20%, se vogliamo continuare Finmeccanica perde il 3%, il Monte dei Paschi pure perde il 3%, Atlantia il 3,20%, Exori il 3,20%, Mediobanca il 3,30%, Mediolanum il 3,30%. Che cosa è successo? Forse più che guardare ai singoli titoli oggi bisognerebbe guardare a un altro indicatore, è il famoso, quasi famigerato ormai, spread con il Bund. Sembra un gioco di parole, è la differenza, lo ripetiamo ogni volta fino allo sfinimento, tra quanto deve offrire l'Italia per trovare finanziatori per il proprio debito, quanto deve offrire come rendimento e quanto deve offrire la Germania. La Germania è il paese più affidabile e quindi offre pochissimo, nel senso che i rendimenti sulle obbligazioni tedesche sono bassissimi, proprio perché tanto è molto affidabile. Più sei inaffidabile, ripeto, come avviene anche per il privato cittadino con la banca, più alto è l'interesse che ti viene praticato nel caso di un prestito bancario e che devi offrire nel caso di uno Stato che voglia avere un finanziamento al suo debito. I BOT, i BTP, altro non sono che finanziamenti al debito. Chiedi un prestito al mercato per finanziare il tuo debito. Allora, la differenza tra quanto rende il BTP italiano e quanto rende il Bund tedesco ha toccato un nuovo record, ed è un record preoccupante. 245 punti, vuol dire il 2,45%, è arrivata anche più in alto. È arrivata anche a un 2,60%, 2,47%. Ora io ricordo che la Spagna viaggia a 2,80, 2,70, 2,80, per cui siamo un po' distanti, ma il motivo, allora, fermo restando che negli ultimi 3 mesi il divario si è ampliato di circa 100 punti, cioè di 1 punto percentuale con la Germania, e tra l'altro ricordo che ogni aumento di 1 punto percentuale sui tassi di interesse che noi dobbiamo offrire per finanziare il debito significa complessivamente sul debito circa 15 miliardi di euro, 1 punto percentuale in più all'anno. Ma il motivo di oggi è eminentemente politico, e questo lo dico anche a chi ieri diceva: ma come, vi occupate di politica in un programma di economia? Attenzione, le tensioni e le inchieste che hanno lambito anche il ministro dell'economia Giulio Tremonti, chiaramente l'inchiesta sul suo ex braccio destro Marco Milanese, ebbene, mette a rischio la figura di Tremonti e il mercato reagisce male. Questo non lo diciamo noi, ma lo dicono tutte le analisi che sono uscite in queste ore per giustificare perché l'Italia perde almeno 2 punti percentuali in più e perché soprattutto questo spread è così aumentato nei confronti di quanto rende la Germania. Allora, buon weekend, gufo. No, vista la giornata, quindi spread in aumento, titoli in netto calo, la sorella è d'obbligo. Andiamo bene, proprio bene. E questo per quello che riguarda l'attualità più forte, ne parleremo nel corso di tutto il programma, anche perché Mario Draghi, il neo presidente, diciamo, della Banca Centrale Europea, due ore fa ha commentato la manovra economica. Ha detto che la manovra italiana è un passo importante verso il consolidamento dei conti pubblici italiani. Ed è un giudizio positivo che già ieri era arrivato dal presidente uscente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet. Tra l'altro Mario Draghi ha anche detto che le banche italiane supereranno gli stress test, l'ho detto oggi in un intervento a Aix-en-Provence in Francia, e che è credibile l'obiettivo del pareggio nel 2014. Quindi da quello che è in questo momento il banchiere più importante d'Europa è arrivato a un giudizio complessivamente positivo. E allora, se non vi sono altri giudizi negativi sull'Italia in questo momento, tutta questa tensione è da attribuirsi, secondo il mercato, ai problemi di tenuta politica interna del paese. Poco fa comunque è finito l'incontro tra il ministro dell'economia Tremonti e il presidente del Consiglio Berlusconi con il sottosegretario del presidente del Consiglio Gianni Letta. Un comunicato recita: è stato fatto il punto su tutti i problemi più attuali, a cominciare dalla manovra, per la continuazione e il rafforzamento dell'azione di governo. Berlusconi ha ribadito la volontà del governo italiano di raggiungere il pareggio di bilancio nel 2014, in linea con gli impegni assunti a livello europeo. Ma spunta anche un fondo tesoretto da quasi 6 miliardi di euro per le misure sul 2012. È un fondo tesoretto appunto da 5,8 miliardi nel decreto della manovra. Le risorse raccolte con gli interventi del decreto che hanno effetto sul 2012 vengono appostate nel fondo per gli interventi strutturali di politica economica, per finanziare misure che saranno adottate ad ottobre con la prossima legge di stabilità. Tra i possibili utilizzi di questo fondo, inserito nel capitolo sviluppo della manovra, ci sono anche gli interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il ministro Maroni oggi invece è tornato sulla manovra finanziaria e ha detto può essere migliorata e modificata già da ora. Fatto salvo il risparmio complessivo, i tagli complessivi previsti dalla manovra, lo stesso Presidente del Consiglio ha detto che si può intervenire per modificarla. E siccome dal mondo delle autonomie ci sono richieste migliorative, soprattutto sui criteri di virtuosità, cioè tutta quella parte che premia i comuni che spendono bene rispetto a quelli che spendono male, credo che il governo debba essere assolutamente disponibile. Allora, chiedono alcuni ascoltatori, ma insomma non fate le verginelle, questo è un attacco esterno all'Italia. Allora, sicuramente vendono anche dall'esterno. Il problema è capire perché arriva questo attacco. I conti pubblici italiani non sono peggiorati. La manovra ha ricevuto un sostanziale apprezzamento sia dalla Banca Centrale Europea che da Mario Draghi che dall'Unione Europea. E tutti ribadiscono che l'Italia può farcela arrivare a un deficit zero nel 2014. Quindi se escludiamo motivi, diciamo, di fondamentale di bilancio, beh, non c'è che una spiegazione politica. E vi invito a leggere oggi su Sole 24 Ore un bellissimo pezzo di Moria Longo dal titolo "Chi destabilizza i mercati, le agenzie di rating sono letali come i politici", in cui si mettono a confronto i danni tra virgolette causati dalle esternazioni delle agenzie di rating, quindi l'outlook negativo e quant'altro, con i danni causati anche dalle esternazioni dei politici, e non solo quelli italiani, ci mancherebbe, tutto il balletto tedesco di Angela Merkel sul salviamo la Grecia, sì, salviamo la Grecia, no, forse sì, forse no. Quindi attenzione che la politica poi, quando si è sotto pressione, ha il suo peso, eh. Da dato sulla produzione industriale ISTAT a maggio, meno 0,6% rispetto al mese, però più 1,8% se si guardano i giorni effettivi di calendario. L'ISTAT invece fa notare che il reddito delle famiglie italiane è fermo, e devo dire che ce ne eravamo accorti anche noi. Nei primi tre mesi del 2011, fermo rispetto al trimestre precedente, più 3,3 su base annua. Però il potere d'acquisto delle famiglie italiane nei primi tre mesi dell'anno è sceso dello 0,8% in termini congiunturali, cioè trimestre su trimestre. E poi un complimento, Edoardo Nesi, nostro ospite parecchie volte, è uno scrittore, però un ex industriale, lo portammo in trasmissione quando scrisse un bellissimo libro che si chiamava L'età dell'oro, immaginando una Prato post-industriale in cui addirittura c'erano anche i cinesi che avevano abbandonato Prato. Ha scritto un libro bellissimo, un altro libro bellissimo, Storia della mia gente, che ha vinto ieri lo Strega, complimenti, lo arriveremo a ospite. È una storia, c'è chi ha definita un Mundebrock all'italiana, comunque è la storia di una generazione di imprenditori in un paese che ha sempre avuto difficoltà attraverso la narrativa a raccontare che cos'è l'impresa, che cos'è stato il motore dello sviluppo di questo paese, la piccola impresa, il miracolo del nord-est, della dorsale adriatica. Ecco, lui ci ha provato, il libro è molto bello, ve lo consiglio, e comunque facciamo un po' di pubblicità, visto che è un libro che parla di impresa e di economia, è anche un libro molto contro la Cina, molto contro la globalizzazione, molto, molto contro il Fondo Monetario Internazionale. Complimenti a Edoardo Nesi, che mi sembra l'unica bella notizia di oggi. E partiamo allora con questo, con questo racconto della giornata. Partiamo proprio dall'Italia nel mirino, come l'abbiamo intitolato, nel mirino per colpa dei conti pubblici, nel mirino per colpa delle agenzie di rating che sono americane e in conflitto di interessi, o nel mirino perché anche noi siamo causa dei nostri mali? (349) 238 6666 è il numero per i vostri sms. Più che causa dei nostri mali, avrei dovuto dire ci facciamo male da soli. Professor Marco Nado insegna economia degli intermediari finanziari all'Università Bocconi di Milano, ex commissario della Consob. Buonasera. Buonasera. La sentiamo un po' basso, adesso faccio alzare il volume, grazie. Meglio. Molto meglio adesso. Allora, vediamo di capirci. Milano perde due punti in più, anche tre, rispetto alle altre borse europee. Sappiamo che gli indici, i titoli bancari pesano molto su Piazza Affari, però abbiamo dei tonfi che obiettivamente risultano inspiegabili. Lasciando stare Fondiari Assai, meno 8,2%, Unicredito perde 7,60%, il Banco Popolare 6,5%, la Popolare di Milano 6,12%, Ubibanca 6%, Intesa 4,70%, Generali 4,40%, Ansaldo STS perde 7%, cioè c'è una vendita generalizzata su tutti i settori. Lo spread, lo raccontavamo prima, cioè la differenza tra quanto veniamo misurati come affidabili rispetto alla Germania è peggiorato, cioè siamo al 2,42%, a 242 punti. Lei ritiene che ci sia un attacco speculativo to court, quindi agenti di rating, dopo il Portogallo si inizia a lavorare sull'Italia, oppure ritiene che le tensioni all'interno della maggioranza, lo scontro strisciante che oggi raccontano molti giornali tra il ministro Tremonti e il sottosegretario Letta, la richiesta di arresto per l'ex braccio destro di Tremonti, Marco Milanese, insomma il rischio stabilità politica pesi più dell'agenzia di rating? Io credo che sia dimostrazione del fatto, e come personalmente ritengo da tempo, che non sono il solo, siamo di fronte primo ad una crisi finanziaria europea, che secondo ad una crisi finanziaria che non esclude l'Italia. L'Italia non è nell'occhio del ciclone, però non può dirsi di essere completamente al di fuori. La speculazione sta sfogliando l'Europa come una cipolla, prima la Grecia, poi l'Irlanda, poi il Portogallo, e ai margini ci sono i due grandi paesi che sono la Spagna e l'Italia. perché anche l'Italia, lo sappiamo, primo perché il nostro debito pubblico è elevato, secondo perché il quadro politico complessivamente è molto delicato. Poi naturalmente, come sempre succede alla speculazione, ci possono essere dei fatti contingenti, e questo può essere, quello di oggi può essere legato alla vicenda del ministro Tremonti che richiamava, ma non lo considererei una causa ma come un pretesto. Quindi è più un pretesto, anche perché, guardi, pochi istanti fa è uscita l'agenzia di rating Moody's che ha detto: la manovra sui conti pubblici italiani contiene misure interessanti che confermano che l'Italia ha delle opzioni per risparmiare, o la palla passa al Parlamento. Per cui, insomma, ieri Trichet, oggi Draghi, anche Moody's, mi sembra che ci sia un consenso di carattere internazionale verso la manovra. Ecco perché trovo abbastanza inspiegabile l'atteggiamento di oggi, professore. Però è una situazione delicata da tempo, perché sappiamo che comunque c'è una manovra consistente e che dovrà essere attuata in futuro, che il governo ha scelto di posizionare nel 2013 o 2014, quindi introducendo un elemento di aleatorietà politica molto forte. Sappiamo che comunque quella manovra sarà sostenibile se l'Italia riprenderà a crescere almeno del 2% all'anno, ha detto la Banca d'Italia, e quindi tutto questo naturalmente mette, ripeto, in una condizione di maggiore esposizione sia il debito pubblico italiano sia le banche. I due settori sono ormai legati a filo doppio fra di loro. Ecco, su questo vedo molti messaggi. Per carità, è vero che la manovra, il grosso della manovra è tutto scaricato sul 2013 e 2014. C'è anche, professore, chi fa notare però che siccome usciranno la settimana prossima gli stress test sulle banche, è un modo anche per fare un po' di speculazione e poi comprare, magari l'ho scoperto, e poi comprare a prezzi più bassi. Certo, questo, diciamo, dipende dal fatto che il discorso non è italiano, ma europeo. Dal giorno dopo che è scoppiata la crisi, ormai quindi 4 anni fa, si è parlato a lungo di misure contro la speculazione, ma la speculazione non sono state neanche tagliate le unghie. E quindi poi non ci dobbiamo sorprendere se ad ogni stormire di fronde ne approfitta. Sì, come dimostrano anche i dati sulle trimestrali americane. Sulla prossima settimana usciranno le trimestrali delle banche d'affari americane, però faccio notare che la festa o il festival dei bonus per i mega manager è già iniziata da tempo. Praticamente nel 2010 Jamie Dimon, numero uno di JP Morgan, ha beccato 23 milioni di dollari di stipendio. Lloyd Blankfein, Goldman Sachs, 18 milioni e mezzo. Bob Diamond, Barclays, 16 milioni di dollari di stipendio. James Gorman, 14 milioni di dollari, nonostante Morgan Stanley abbia perso il 50%, nonostante anche nel caso di altre banche i risultati non fossero ottimi. Chiudo con il numero uno di Bank of America, Brian Mulhern, 9 milioni solo di stipendio nel 2010, e nonostante il bilancio della banca fosse in calo come utili del 37%, vi riviene in mente una profezia di Gordon Gekko nella seconda versione, nella versione in cui ormai anche lui si sente vecchio, Wall Street 2. Negli ultimi 2 anni hanno venduto derivati, oltre ai subprime, swap, future, qualunque spazzatura. Sapevano che l'illusione dei mutui avrebbe fatto crollare il mercato. E quando il crollo si è avverato, si sono fatti comprare i titoli tossici dal governo senza perdere un dollaro. Questo è l'impero del mare. Io ero un dilettante. Io sono una mezza tacca rispetto a loro, ragazzo. Il sistema è insolvente. Nessuno sa cosa fare dopo. Eccetto ripetere la follia fino a che non scoppia la prossima bolla. E sarà quella vera, quella grossa. Come la storia dei tulipani, ricordi? Ah, Allora, professor Nardo, adesso voglio anche il suo giudizio sull'agenzia di rating, che insomma è un tormentone che stiamo portando avanti da intere puntate, ma mi dica una cosa, non è che mentre qua in Europa ci contano tutti, diciamo, i peli che abbiamo in testa e ci guardano con la lente di ingrandimento qualunque dichiarazione politica, i conti greci, la tenuta del debito italiano, in America Wall Street i geni in gemelli gessati sono tornati a fare le stesse cose di prima? È il discorso che dicevo prima, cioè alla speculazione non sono state neanche tagliate le unghie. Gli Stati Uniti hanno fatto una riforma molto, molto complessa, che dipenderà molto dalle regole di attuazione che dovranno emanare la SEC, cioè l'autorità dei mercati da un lato e la banca centrale dall'altro. In attesa di questo, tutto come prima. Senta, in questo tornare tutto come prima, secondo lei qual è il ruolo delle agenzie di rating? Perché voglio dire, nate per motivi diversi, sono partecipate, parlo in questo caso di Moody's e Standard & Poor's, Moody's anche da un grande finanziere e speculatore come Warren Buffett, lui dice di essere un cassettista, però insomma, e poi comunque da alcuni tra i principali fondi comuni di investimenti americani. Anche qui voglio dire, sono due cose da dire. La prima è che agenzie di rating abbiamo bisogno, perché quando abbiamo delle quantità così cospicue di titoli pubblici o privati in giro, abbiamo bisogno di un operatore esterno indipendente che orienti le scelte degli investitori, anche degli investitori istituzionali, dei fondi comuni, dei fondi pensione e così via. Purtroppo le agenzie di rating come le abbiamo non rispondono a questo modello ideale, e quanto più poi sono quotate e con un azionariato che può avere conflitti di interesse, tanto più si allontanano, ripeto, da questo obiettivo ideale. Per cui un po' seconda cosa da notare è che le agenzie di rating, proprio nella crisi finanziaria, nella valutazione dei titoli privati, hanno veramente fatto hanno preso delle topiche non da ridere, morose, insomma. Il 95% dei titoli AAA del settore subprime si è trasformato in junk bond nel giro di due anni. Me la ridice questa percentuale? Il 95% dei titoli. Cito a memoria, ma. Di titoli di società che erano subprime, avevano la AAA e poi sono diventati dalla giorno alla notte, diciamo, spazzatura. Sì, nel giro di un paio d'anni. Sì, giorno alla notte, nel senso figurato. Ecco, quindi mi sembra che la sua posizione sia simile a quella che rappresentava ieri il vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Platerotti. Dice: attenzione, le agenzie di rating sono come gli insegnanti che danno i voti, servono i voti per capire come va lo studente, dopodiché se casomai si cambia l'insegnante, ma non si mette in discussione l'idea del voto. Professor Nardo, grazie e buon fine settimana a Marco Nardo. Adesso non mi resta che lasciare la linea al meteo, alla pubblicità, poi commentiamo la borsa e saranno dolori, e poi torniamo, commentiamo anche invece un caso di borsa. Due giorni fa la Campari ha festeggiato 10 anni di borsa con una grossa soddisfazione, almeno loro. E poi torniamo invece ai temi sull'attacco europeo, come lo chiamano, l'attacco all'Europa, e il cappio che con alcuni si stringe sempre di più verso i paesi più a rischio. 349-238-6666 per i vostri SMS. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora commentiamo questa giornata di borsa, poi torneremo a parlare di quanto è aumentato a un nuovo record storico la differenza tra i nostri BTP e quelli tedeschi, che misurano la nostra affidabilità a livello internazionale. E oggi la campanella di borsa l'ha suonata poi un ospite speciale. Right way. Eh sì, è in trasferta a Wall Street, ma non solo, anche a Piazza Affari il nostro gufo, contento di suonare la campanella, meno contenti noi dei risultati, meno 3,50% oggi Milano, mentre Francoforte perde solo lo 0,90, come Londra e Parigi meno 1,70, l'America meno 0,90. Allora, tutte le borse europee e anche Wall Street sono state influenzate negativamente dai dati americani sulla disoccupazione, ne parliamo dopo, peggiori delle attese. Un tasso di disoccupazione che sale, mentre c'è un'attesa di un tasso di disoccupazione sotto controllo. Sento una di sotto, ma non capisco cosa sia. Detto questo, Milano va peggio di altri listini e qui ci sono i casi di casa nostra. Guido Maurino, Radio Colle, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Abbiamo parlato ampiamente della speculazione sull'Italia. Fammi solo capire una cosa. Ma quanta speculazione c'è sugli stress test che usciranno la prossima settimana sulle banche? Perché insomma Unicredito meno 7,80, Fondiaria meno 7%, Banco Popolare meno 6,50, Popolare di Milano meno 6,12, Ubibanca meno 5,80, Azimut meno 5,60, Intesa San Paolo meno 4,5, Generali meno 4,40%, finisco sul mondo bancario con Mediobanca meno 3,24 e Monte dei Paschi meno 3%. Allora, c'è sicuramente speculazione, in particolare diciamo per quello che riguarda Unicredit, che poi è stato il titolo peggiore del FTSE MIB, del listino principale. C'è il fatto che si torna a parlare nuovamente di possibili aumenti di capitale, che peraltro sono sempre stati più volte smentiti dall'istituto di Piazza Cordusio. C'è anche un fattore legato alla speculazione sui titoli di Stato italiano, che oggi con lo spread fra i titoli di Stato italiano e quelli tedeschi, che ha sfiorato i 250 punti base, un fattore che va a penalizzare le banche italiane, ed è questa la ragione cioè non è una speculazione diretta sulle banche, è una speculazione quasi indotta rispetto a quello che succede sui titoli di Stato. Sì, quindi lo spread su Bund, attenzione perché qui la variabile è politica, l'apprezzamento della manovra è arrivato oggi, oltre che da Mario Draghi, anche da Moody's poco fa e ieri da Jean-Claude Trichet, non è solo sulla manovra. Comunque andiamo rapidi perché poi torniamo a parlare tanto. Bulgari si salva dalle vendite, ieri definito il passaggio con i francesi di Arnaud, infatti chiude invariato. Fiat, calo pesante per Fiat oggi, perché ha perso l'auto meno 3,30, ma anche Fiat Industrial ha perso il 4,24% ed Exor il 2,90. Sì, per quello che riguarda Fiat c'è un timore di un rallentamento delle vendite di auto nel Sud America, che rappresentano un mercato molto importante per il lingotto. C'è stato uno stop deciso della produzione di una settimana in Argentina e la stampa brasiliana oggi ha parlato di un possibile stop anche per quello che riguarda la produzione in Brasile. Si tratta di due notizie che mostrerebbero in qualche modo un rallentamento delle vendite di auto proprio in due mercati in cui Fiat è molto forte e che in questi mesi, in questi anni, hanno dato le soddisfazioni maggiori per il lingotto. Per il lingotto, certo. Ancora Telecom, anche qui il calo è abbastanza pesante. Sì, Telecom oggi ha... In una giornata, per carità, però meno 2,20. Sì, ha fatto comunque meglio del mercato, comunque diciamo che mercato, oggi ha annunciato una nuova acquisizione in Brasile, un'acquisizione che vale 700 milioni di euro. Dal management sono arrivate rassicurazioni sul debito, perché comunque il debito rimane un tema importante per quello che riguarda Telecom Italia. Di certo il mercato insomma si è mostrato abbastanza prudente, ecco, oggi nell'accogliere questa operazione. Che ci sia una vendita collettiva su tutti i settori lo dimostra il fatto che al di là dei bancari, al di là di Fiat, va male Pirelli, meno 3,80, senza motivo, Estima Microelectronics meno 3,5, come l'automatica, e poi vanno male anche gli energetici, nonostante la benzina a record, meno 2,30 Enel, meno 2,40 Eni, meno 2,40 Enel Green Power, meno 2,44 Snam Rete Gas. Si salva soprattutto Antichi Pellettieri, ho visto, no? Sì, Antichi Pellettieri, che è una delle società della Galassia Burani, oggi ha preso il controllo, ha annunciato la presa di controllo di Mosaicon, che era un'altra delle società appunto della Galassia Burani. Antichi Pellettieri ha cambiato fra virgolette, pelle nel corso dei mesi. In una battuta, mi dici com'è andata l'Opa Parmalat? Oggi è l'ultimo, giorno, giusto? Oggi è l'ultimo giorno, ancora non sono usciti i dati. Il titolo però teneva? Il titolo ha ceduto sul finale il 2,26%. No, perché avevo visto che durante la giornata teneva, poi evidentemente anche lui non si è salvato dalle vente collettive. Grazie, buon fine settimana ai colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore, grazie a Guido Maurino. Adesso il traffico, poi respiriamo con un caso invece di successo e poi torniamo invece a parlare di quello che è successo oggi sul mercato. Di nuovo in diretta, dicevo, parliamo, vista la giornata, respiriamo un attimo con un caso di successo in un anno e in alcuni mesi in cui molte società hanno rinunciato a sbarcare a Piazza Affari, Moncler, Filogen, Riag. Invece c'è chi ha appena festeggiato i 10 anni di presenza in borsa italiana. E allora parliamo di chi è rimasto per 10 anni in borsa e li ha festeggiati, ma anche di chi rappresenta un settore dei consumi, del largo consumo. Sapete quanto seguiamo anche gli indicatori più empirici che arrivano dal mercato. Mi riferisco al gruppo Campari, che ha festeggiato i 10 anni di quotazione a Piazza Affari. Era il 2001 quando la società sbarcò in borsa, proprietaria della famiglia Garavoglia. Poi ricorderemo anche le cifre del gruppo Campari, che comunque è tra i principali gruppi del settore beverage a livello mondiale: 3,3 miliardi di euro di capitalizzazione, giro d'affari di circa 1 miliardo e 100 milioni di euro l'anno, 190 paesi quelli in cui è presente, dove in molti di questi detiene anche la leadership di mercato, tra cui Italia e Brasile, 2000 dipendenti. Campari per noi vuol dire Campari, ma in realtà il gruppo Campari vuol dire altri 40 marchi: Aperol, Cynar, Glen Grant, Zeta Piras, Riccadonna, Cinzano, Wild Turkey, Crodino, Lemon Soda. Chi è l'azionista di controllo in questo momento è la Alicross SPA, sempre appunto fa capo alla famiglia Garavoglia con il 51%, e poi un altro 10% ce l'ha il fondo Cedar Rock Capital. È nostro ospite oggi l'amministratore delegato del gruppo Campari, Bob Kunze-Koncevitz. Buonasera. Buonasera. Allora, lei di dov'è al di là del cognome? Sono austriaco, di passaporto, nato e cresciuto in Turchia e poi mi sono girato un po' il mondo. 10 anni di borsa, praticamente 10 anni di borsa coincidono quasi con la nascita di questa radio, che di anni ne ha 12 quasi, a ottobre ne facciamo 12, però iniziamo a trasmettere quando appunto la borsa era in piena bolla, poi si è scoperto della New Economy, era il 99, voi siete sbarcati un po' dopo, nel 2001. Che cosa ha voluto dire stare in borsa per 10 anni? Molti suoi colleghi quotati si lamentano che la borsa spesso si muove su valutazioni speculative, su valutazioni di analisti che non capiscono il reale valore della società, che si muove su tutto un insieme di luoghi comuni, di stereotipi che poco hanno a che fare con i veri fondamentali di bilancio. 10 anni in borsa vuol dire passare da una capitalizzazione da 900 milioni a 3,3 miliardi e rispecchia quello che abbiamo fatto sia a livello di crescita del fatturato che crescita dei profitti. 3,3 miliardi da 900 milioni ha avuto anche una ricaduta, immagino, sui dividendi poi che ho distribuito. Sì, ma dobbiamo anche dire che non siamo i più generosi. Siamo un'azienda acquisitiva, abbiamo fatto 18 acquisizioni negli ultimi 16 anni, dunque abbiamo un utilizzo diverso per il grande flusso di cassa che generiamo. Beh, però insomma il titolo è passato da 1,55 euro a 5,80 euro più o meno, ed è il 274% in più. Praticamente il ritorno sul capitale quanto è stato investito? Un 350%? Sì. Ecco, ma lei che critica può muovere alla quotazione? Ho capito che a voi è convenuta, ma condivide le obiezioni? Devo dire, allora, noi forse siamo anche un caso particolare. La borsa ci ha dato tanta visibilità, ma da un altro lato abbiamo un azionista di maggioranza e quello fa che noi l'azienda non la gestiamo per il prossimo quarter, ma la gestiamo veramente con una veduta long term. Ecco, e questa è una cosa importante. Cioè la critica che viene fatta spesso a chi è quotato è che i mercati guardano trimestre su trimestre e non guardano, non riescono a valutare un'azienda, un gruppo, una società nell'arco di un anno, due anni, tre anni, cioè sui piani di sviluppo veri. Lei mi sta dicendo che avendo voi la quotazione, ma anche una famiglia che ha il 51%, riuscite a tenere assieme le due cose? Assolutamente. Ma guardi, noi siamo nel largo consumo, il nostro mestiere è il brand building, e una marca non si costruisce in 4 mesi. Nel nostro settore ha bisogno di 5 a 10 anni. Qual è stata la logica della vostra politica di acquisizione? Perché io citavo i marchi, alcuni sono notissimi e italianissimi, altri sono molto internazionali invece. Quello che guida la nostra strategia di acquisizione è il desiderio di aumentare la nostra massa critica nei mercati dove controlliamo la nostra distribuzione. Tornando alla borsa, qual è la cosa che più le è dispiaciuta in questi anni o l'ha fatta più storcere il naso sulla reazione del titolo in borsa? Il mercato deve essere lui che valuta, diciamo, il prezzo di un'azione. Ma vi siete sentiti incompresi qualche volta? Sì, ma l'importante è avere una strategia vincente, di avere le giuste persone a bordo e anche i marchi da costruire. Fra poco, meno di un mese, voi uscite con i prossimi dati semestrali a questo punto, quindi so già che non me li può anticipare. E come stanno andando comunque complessivamente le vendite? L'ultima bilancio che avete presentato segnalava dei consumi sostanzialmente fermi. Vorrei capire se il dato permane e poi arrivare invece ad alcune dinamiche sui consumi. Se ci focalizziamo sull'Italia, il mercato è fermo, leggermente in declino. Vediamo di capire che cosa voi osservate. Mi interessa un po' quello che ci hanno raccontato altri suoi colleghi, il numero uno di Coin, di Autogrill e di quant'altro. Cioè quello che voi vedete essere la dinamica di questa crisi. Che cosa avete notato voi proprio come consumi? Visto che è vero che stiamo parlando di marchi leader, ma è un bene, in qualche modo, se non di lusso, sicuramente voluttuario. Uno non è obbligato a bere Campari o a fare l'aperitivo. Il nostro è un lusso, forse, ma un lusso molto accessibile. Se uno va a vedere il mercato degli spirits in Italia, la categoria la più grossa è quella degli aperitivi. Il mercato degli aperitivi lo dividiamo in due fasce. C'è l'aperitivo corto, che si consuma nei bar diurni, c'è anche l'aperitivo lungo, dove il consumatore paga per un cocktail, e quello lì dà diritto di andare a un buffet e servirsi. E l'aperitivo lungo, la gente ci va verso le 6, 6:30, ma ci può rimanere 3-4 ore. E quello è un fenomeno che è un win-win-win per tutti quanti, un grosso win per il consumatore, perché per il prezzo di un cocktail riesce a farsi quasi tutta una serata e la cena. Allora, io vedo già dei messaggi al 349-238-6666. Attenzione, perché abbiamo fatto anche un'intera puntata sugli indicatori sociologici, empirici, che possono descrivere la crisi, la ripresa, la recessione. Ricorderete la lunghezza delle gonne delle donne, l'uso di cosmetici, ce ne sono tantissimi di questo tipo, che sono legati a livello statistico, di correlazione statistica, con l'andamento del ciclo economico. Qui vorrei essere molto preciso. Lei mi sta dicendo che la dinamica dell'utilizzare molto l'aperitivo lungo è aumentata da quando è scoppiata la crisi? Sì, diciamo che è partito anche prima della crisi, e perché questo comunque è una cosa che è molto attraente, diciamo, per gli italiani. Ma la tendenza chiaramente si è accelerata un po'. Voi dovreste fare un monumento ai veneti che hanno inventato lo spritz. Senza lo spritz, voglio dire, avreste avuto altri numeri? Assolutamente sì, ma penso che anche le nostre squadre sono stati abbastanza bravi a diventare ambasciatori, a convincere i venti a bere, di prendere un qualche cosa, di prendere con qualche cosa ben stabilito nel Veneto e spargerlo attraverso il paese. Mi dica un'ultima cosa, dottor Koncevic, ma quando io faccio la battuta ogni tanto che il titolo Campari sale venerdì perché inizia lo spritz time, il tempo dell'aperitivo, dico una castroneria o voi notate che il titolo sale di più verso fine settimana? Ma sinceramente non ci vedo la correlazione. Vabbè, quindi dico una castroneria. Grazie amministratore delegato del gruppo Campari, Bob Kunz Koncevic. Grazie. Eppure sarà anche una castroneria, ma anche oggi Campari è il titolo migliore, essendo il venerdì del listino assieme a Bulgari, ha perso solo lo 0,60%. Chi ha avuto voglia, vista l'intervista, di farsi un aperitivo, vada, perché nella seconda ora del programma torniamo a parlare dell'attacco ai debiti sovrani, dell'attacco speculativo all'Italia, dell'effetto delle tensioni politiche sulla nostra borsa e sulle nostre obbligazioni. 349-238-6666 per i vostri sms. 18:09, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo che l'intervista al numero uno della Campari ha sortito anche effetti polemici, spero non dovuti al Campari stesso. C'è chi dice avete parlato del concorrente. No, Aperol fa parte del gruppo Campari, quindi la battuta sullo spritz ci stava tutta ed è l'unica battuta di questa puntata, perché se non fosse stato per l'intervista con il numero uno della Campari, la giornata aveva solo un tratto nero. Riprendiamo le fila, abbiamo ragionato in apertura di quello che è successo oggi sui mercati. Devo dire che nel frattempo sono arrivate un insieme di valutazioni. Ripeto, Mario Draghi come futuro presidente della Banca Centrale Europea, Moody's poco fa sulla manovra finanziaria, che non sono sicuramente negative sulla manovra italiana, e quindi il motivo di un attacco che si vede più oggi sugli spread, sulla differenza tra quanto rende un BTP italiano e quanto rende un BTP tedesco, che è arrivata a un nuovo massimo storico, che non sulla borsa, evidentemente trae origine da altri motivi. Di questo parliamo adesso. 349-238-6666 per i vostri sms. E ne parliamo con Walter Riolfi del Sole 24 Ore. Walter, insomma, la situazione ti è ben nota: meno 7,80% Unicredito, meno 7% Fondiera, quello per un'altra vicenda, meno 6,40% Banco Popolare, meno 6,12% la Popolare di Milano, meno 5,80% UbiBanca, meno 4,50% Intesa San Paolo. Questa volta però le agenzie di rating non c'entrano nulla, nel senso che non abbiamo visto comunicati particolari usciti questa mattina. Partiamo dalla differenza tra quanto deve offrire l'Italia per finanziare il suo debito, i BTP, e l'interesse sui BTP, e quanto deve offrire la Germania. Ha toccato un nuovo massimo a 242, è arrivata fino a 246 punti. Vorrei partire da lì perché ho la sensazione, però correggimi se sbaglio, che questa volta il nesso sia proprio sulla affidabilità del paese e poi ha ricaduta sulla borsa, non il contrario. Prego, Walter. Non c'è dubbio, è il rischio paese. Faccio un esempio semplicissimo. I nostri ascoltatori ricordano la BNL, no? La BNL non ha mai brillato come una delle migliori banche del paese, no? Negli anni passati. Sarà contento Bete. Bene, il CDS, cioè il credit default swap, l'assicurazione per tutelarsi dal fallimento di una società sulla BNL, costa esattamente la metà o meno della metà di quello di Unicredito o di Intesa, che sono banche grosse, sempre state grosse, più solide, più affidabili, più redditizie, eccetera. Il CDS è il premio che si paga sulla polizza per assicurarsi nel caso di fallimento. Vuol dire? Qual è il motivo? BNL non è italiana, perché appartiene a BNP. A BNP Paribas. Allora, questo qui ti dimostra che quello che sta succedendo, questo attacco all'Italia, è indubbiamente un attacco al paese, perché è stato percepito il rischio del paese. E questo rischio paese, se si guarda i vari indicatori, tipo lo spread, il rendimento tra il BTP e il Bund, comincia ad ampliarsi dopo l'esito delle elezioni amministrative. In effetti è vero, perché nell'ultimo mese ha preso 100 punti, cioè elezioni amministrative e il referendum. Sì. Non tanto perché ci sia la paura che aveva vinto la sinistra, quanto perché questo qui ha creato un'instabilità all'interno del governo e una litigiosità all'interno del governo. E tra l'altro oggi il motivo scatenante è proprio il rischio che se ne vada Tremonti, che all'estero è percepito come è l'unica persona, l'unico interlocutore del governo italiano che dia un po' di affidabilità e di serietà, indipendentemente dalla finanziaria, se è severa, se riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi, eccetera, no? Invece dall'altra parte della maggioranza si sentono voci di allentamento del rigore fiscale, non si vuole tagliare la spesa pubblica. Parlavo con un operatore e mi diceva che erano scandalizzati i suoi corrispondenti internazionali inglesi e americani quando hanno saputo che per esempio le province non sono state tagliate. Non sarà stato un grande risparmio, però qualche miliardo di... Ecco, e quindi questo atteggiamento dell'Italia... Più politico che economico, no? E quindi il motivo di questo attacco è tutto politico. Gli americani nemmeno sapevano cosa fosse Unicredito fino a qualche tempo fa, cioè la banca più grossa che avevamo in Italia. Adesso è al primo posto di contrattazioni nel dark pool di Goldman Sachs, cioè in quel sistema, circuito di contrattazioni piuttosto opaco, non regolamentato, eccetera, con volumi altissimi. C'è però chi dice, Walter, ho capito benissimo il ragionamento, cioè, insomma, visto che non sono peggiorati i nostri conti, la manovra finanziaria ha ottenuto il plauso, e va detto, sia dell'Europa che della BCE che di Moody's, per cui non è la manovra in sé, è la capacità, se ho ben capito, di portare avanti questa manovra senza annacquarla, e soprattutto la tenuta del governo e, nel caso specifico, la tenuta del ministro Tremonti, che piaccia o non piaccia, noi non esprimiamo giudizi politici qui, però è percepito dai mercati e quindi dagli investitori come il ministro che ha tenuto i conti sotto rigore negli ultimi due anni. In effetti l'Italia ha avuto un peggioramento del deficit simile, se non inferiore, a quello di altri paesi e anche del conseguente debito. Tra i più bassi d'Europa. Tra i più bassi d'Europa come deficit. Il debito deficit è la somma di tutti i deficit che si sono accumulati in questi anni, più gli interessi che abbiamo pagato su questi deficit. Il deficit è invece come chiudi l'anno, il bilancio di fine anno. È in rosso, ma è un rosso, diciamo, inferiore a quello di altri paesi e comunque non in peggioramento rispetto ad altri paesi. Non essendoci quindi motivi, diciamo, di bilancio, il tuo ragionamento è l'attacco è solo per l'instabilità politica. C'è però chi dice anche che vi possono essere delle vendite allo scoperto per poi ricomprare i titoli quando usciranno i risultati degli stress test la settimana prossima e magari avremo dei grandi rialzi. No, questa è un'ovvietà, cioè tutti quelli che si mettono al ribasso lo fanno, la grande speculazione lo fa allo scoperto, lo fa vendendo i titoli allo scoperto. Allora, perché la Spagna, le banche spagnole non sono state tartassate oggi un pochettino di più, però nei giorni scorsi, perché non sono state tartassate così tanto come le banche italiane? Ma il motivo è semplice, è perché i BTP, lo spread, la differenza di rendimento tra i BTP e i bonus spagnoli, l'equivalente spagnolo dei nostri BTP, si sta sottigliando, si sta quasi annullando, perché la speculazione attacca l'Italia, perché il mercato dei BTP, dei titoli di Stato, è un grande mercato, quello italiano, è molto liquido, quindi è facile operare su questo mercato, e perché anche il mercato azionario sulle banche italiane è più liquido di quello spagnolo. In Spagna, a parte due banche, certo, Santander, e Bilbao. Santander e Bilbao, le altre tra l'altro sono messe decisamente molto peggio delle banche italiane, certo, eppure non hanno subito la falcidia. Soprattutto le casse di risparmio spagnole sono messe, sì, a un passo, diciamo, da un livello di non dico di bancarotta, ma di sostenibilità vera e propria. Tutti questi elementi, cioè se noi eliminiamo la possibilità che vi siano elementi dovuti al debito, al deficit, che non sono peggiorati più delle attese, cioè eliminiamo la manovra finanziaria in sé che non è stata accolta male, eliminiamo la possibilità che le banche italiane siano messe peggio, diciamo, di loro rispetto alle banche spagnole, vedere che noi ci stiamo avvicinando allo spread spagnolo rispetto alla Germania, cioè la differenza che deve pagare la Spagna rispetto alla Germania per trovare finanziatori, è chiaramente una variabile politica. Resta con noi Walter Rioffi, perché dopo il traffico avremo anche un altro ospite. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia. Saluto e ringrazio per averci raggiunto in collegamento anche Daniel Gross, che è direttore del Centro Europeo per gli Studi Politici, Centre for European Policy Studies. Buonasera, professore. Buonasera, professore. Allora, ci stava raccontando il collega del Sole 24 Ore, Walter Rioffi, che l'attacco di oggi, e quindi lo spread tra il BTP italiano e il Bund tedesco, che ha toccato un nuovo record storico, e il calo della borsa italiana, che è di almeno 2 punti percentuali più forte rispetto alle altre borse europee, è dovuto non a una manovra finanziaria che non è piaciuta, e Moody's, BCE, Europa l'hanno apprezzata, non a un deficit italiano peggiore di altri paesi, ma alla variabile politica questa volta, l'instabilità politica, lo scontro in atto, l'inchiesta, aggiungo io, su Marco Milanese, che ha lambito anche il ministro all'economia, e il timore che Tremonti se ne possa andare o possa essere messo, diciamo, in un angolo. Vorrei sapere innanzitutto se lei è d'accordo, visto da Bruxelles, ma dove si occupa di studi anche e soprattutto politologici. Prego. Ma non si può parlare l'uno senza l'altro. Un paese che è fondamentalmente forte non è vittima di attacchi speculativi anche se cade un ministro delle finanze. Solamente in paese in cui già le cose sono un po' al margine e poi se è esposto e se ha qualche difficoltà politica, appunto è vittima. E questo è il problema. Cioè lei dice, siccome il paese è già, diciamo, delicato per l'ammontare del suo debito, per la bassa crescita, se anche si tocca il ministro dell'economia, che Walter Iofi definiva per i mercati, non è un giudizio di valore, è un giudizio di fatto, ritenuto il più affidabile del governo, lei dice a questo punto sia un'accelerazione? Appunto, questo è il pericolo, che poi dopo c'è questa autoalimentazione del problema, perché una volta che i tassi di interesse salgono le spese di interessi del governo e tutto diventa molto più difficile. Ecco, Walter Iofi, c'è anche chi dice che alcune misure, chi scrive, e anche sulla nostra pagina di Facebook, vedo, di Focus Economia, c'è chi scrive che forse anche le misure prese in finanziaria, l'aumento, che sono è triplicato il valore del bollo per il deposito titoli, 160 euro, 380 euro, e alcune misure, la finanziaria si attende 2,8 miliardi almeno dalla tassazione dell'aumento dell'IRAP su assicurazioni e banche possono aver influito. Per quanto riguarda l'aumento dei bolli sui depositi, questa è una tassa che va a gravare sui risparmiatori e non sulle banche. Per quanto riguarda invece i risparmiatori italiani, l'aumento dell'IRAP però è cosa di qualche giorno fa e mi pare che forse questo sia già stato scontato dalla caduta precedente delle quotazioni. Per cui dice non può essere quello. Daniel Gross, in questo momento sotto attacco però a livello europeo, anzi sotto critica a livello europeo, sono le agenzie di rating, e abbiamo avuto diversi commenti di Jean-Paul Fitoussi, di Giulio Sapelli, Alessandro Platerotti ieri, insomma si dice che le agenzie di rating stiano operando con dei danni alla politica nazionale ma senza un controllo e senza essere vere espressioni di organismi sovranazionali come sono il Fondo Monetario, come la Banca Mondiale, come anche la stessa Banca Europea per la ricostruzione degli investimenti. Lei è d'accordo? Ma no, il portatore di brutte notizie viene sempre colpito, ma le agenzie di rating danno la loro impressione di come vanno le cose. Noi altri siamo poi liberi a dire un'opinione che vale o che non vale. Se poi i fatti smentiscono le agenzie, nessuno gli dà retta. Invece il problema è che per quanto riguarda adesso a breve termine la politica italiana non li spentisce, non si vede un governo stabile che possa impegnarsi in una lotta continua contro il deficit e contro la spesa, ed è per questo che hanno avuto un impatto. Quindi lei è più dell'idea che gli avvoltoi si muovono laddove c'è odore di cadavere più che essere la colpa del cadavere? Bisogna far vedere che questo non è un cadavere, ma è una persona viva e vegeta che ha anche un cervello che opera, che ha dei piani per il futuro, e una volta fatto poi le agenzie di rating diventano secondarie. Ma perché oggi secondo lei si concentra tutto sui tassi? Ieri la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi, ma non è a mio avviso questo. Cioè noi tutte le borse calano oggi perché c'è un dato americano sulla disoccupazione che abbiamo ricordato brutto in aumento, ma noi perdiamo parecchio di più. Lei è convinto che i mercati possano scatenare veramente un attacco speculativo all'Italia, che non è il Portogallo, non è la Grecia, non è l'Irlanda? Ma l'Italia è una vittima molto più appetibile, perché sulla Grecia e sul Portogallo non si possono manovrare grandi masse, mentre questo è possibile sull'Italia. E poi si sa che i mercati possono concentrarsi sempre su una sola cosa. Finora hanno pensato Grecia e un po' il Portogallo, ed è lì che è focalizzata l'attenzione. E invece poi il caso Tremonti e altro ha fatto scattare una moda, dico, ma non ci avevamo pensato, magari anche loro sono esposti. Vediamo un po' cosa succede se vendiamo. Lei che ricetta avrebbe per la politica italiana, Daniel Gross, a questo punto? Perché voglio dire, il caso Tremonti non è che scoppi così per un motivo di lotta politica. C'è un'inchiesta della magistratura, un'ordinanza di arresto del suo ex braccio destro, e da lì poi patono le accuse, ma non è, diciamo, non è solo scontro politico e voglia di litigare e basta. Ma io direi che l'Italia è un po' al di là di questi giochi politici, qui ci vorrebbe un incontro piuttosto tra l'opposizione e il governo, ma senza entrare nei dettagli, è chiaro che ci vuole rigore fiscale, ma ci vuole anche un'altra cosa, ci vuole un freno al credito al consumo, perché l'Italia è in queste difficoltà anche perché il consumatore italiano, si sa, spende poco, ma spende purtroppo ancora più della sua disponibilità finanziaria, si indebita e così si indebita tutto il paese. Ma quindi lei sta sostenendo dal punto di vista politico, per uscire da un impasse economico, la grosse coalizione, cioè un accordo, diciamo, maggioranza opposizione che mette al sicuro la stabilità politica più che quella dei conti pubblici? Ci vuole stabilità politica per la stabilità dei conti pubblici, che si è visto anche in Grecia, e quando i tempi sono veramente duri non basta una finanziaria qui passata contro l'opposizione e poi magari viene poi implementata a metà, e poi, come ho detto, ci vogliono anche altre misure strutturali che non si fanno governo con opposizioni, ma per cui ci vogliono le cosiddette larghe intese. Walter Iolfi, per concludere, ma non rischiano di farsi male gli speculatori contro l'Italia? Perché abbiamo sempre detto che finché attacchi il Portogallo e la Grecia sono piccolissimi paesi, valgono una regione italiana. Ma insomma, l'Italia... Per ora ci stanno guadagnando, vanno al ribasso, confidano probabilmente proprio nella divisione, in questa incapacità anche della politica italiana di reagire e di dare un messaggio rassicurante. Fino a quando la speculazione può spingersi non si sa. Noi sappiamo che tutti i mercati sparano eccessivamente o in una direzione o nell'altra. Un giorno o l'altro probabilmente si fermeranno. Io non so se abbiamo toccato il minimo, le banche abbiano toccato il minimo, però per ora di sicuro non si sono fatti male, stanno solo guadagnando. Insomma, una puntata leggera in cui insomma, poteva andare anche peggio. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. Grazie a Walter Iolfi, grazie a Daniel Grosso in collegamento con noi da Bruxelles, da Sebastiano Brisoni un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, un augurio a voi in ascolto di un buon fine settimana, ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.